End of messages. Press delete to erase all old messages. All old messages. Erase. Press 2 to play new messages. Dai, rispondimi. Non possiamo farne un dramma. Giro un'altra canna. Poi richiamo mamma e dico: sono vivo, tutto a posto. Caffè, poi accendo la TV. Solo per compagnia. Ma non è colpa mia. Se poi non voglio uscire, fare niente, perché non è interessante se qui non ci sei tu. Sì, avevo immaginato che tu non mi credessi, e che siamo tutti uguali, siamo sempre gli stessi. Però allora non guardarmi con quegli occhi da matta, perché non saprei quando dirti basta. Prendila così, ma non avessi mai niente da perdere. Ti chiamo e dici non fa niente, sempre. Ma poi tu ti prendi e non mi lasci più solo. Quando mi perdo neanche mi trovo. Se dove sono, baby, che ore sono? Baby, buongiorno. Sì, mi piace che resti, che stai in giro qui intorno. Hai lasciato qui leggings e la mia felpa addosso. Ieri sera no come, non parliamone proprio. Stamattina di nuovo e devi andare al lavoro. E devo andare al lavoro, neanche so che ore sono. Quando sto con te non tocco terra. Sto meglio con te come con l'erba. Morirò sì, ok, ma non di noia. No, ti metto dappertutto, tipo la salsa di soia. Penso a noi solamente in strada quando cammino. Ed ho comprato una nuova giacca che non abbino. Di venerdì sa lavoro, ma anche se non ho niente, lì non ci vengo comunque perché c'è troppa gente. Da quel posto già mi hanno cacciato. Non mi attira la moda, non mi attira la droga, perché sinceramente ho già dato. Prendila così, ma non avessi mai niente da perdere. Ti chiamo e dici non fa niente, sempre.